me, so perché lo cerchi ciò che vuoi, ma la parità non te la dà un cliché. Attenta che non basta mica avere una gonna per poter dire di essere realmente una donna. Occorre la fatica per potersi realizzare, per alcune la fica è l'unica arma da utilizzare. Tu vuoi la parità trattandomi come uno schiavo, mi vorresti come sono ma con il cervello cavo. Mi vorresti buono dentro un burka africano, tu vuoi fare il Doro Righe e comandarmi come un bravo. Conti di campare solo col tuo sex appeal, quindi spendi la tua eredità tra farne stick e pill. E chiedi con tanto diamante agli amanti sedotti che ti hanno ormai pagato pure i tuoi segni rifatti. Chiude la parietti e poi fai la femminista, ma non sei Nil Deiotti, sei solo un atronista, un opportunista che ti conta i difetti e che ti sfrutta perché brutta dentro come la Chivetti. Parli di rispetto ma ti trattano da cagna, ti fai pure il prof nuda sopra la lavagna. Che se tu sei raccomandata più della Carfagna, se vuoi la parità va a zappare in campagna. Usa il cervello mia cara, non è una gara per chi spara più bocchini a burattini lecchini. La tua vita un bordello fa acqua più del Niagara e ti divora come ha fatto con la scuola e la Gelmini. So quello che cerchi e ciò che vuoi, è quello che vorresti anche da me. So perché lo cerchi ciò che vuoi, ma la parità non te la dà un cliché. So quello che cerchi e ciò che vuoi, quello che vorresti anche da me. So perché lo cerchi ciò che vuoi, ma la parità non te la dà un cliché. Tu fai capricci, cerchi mille intrecci, a casa non ti muove neanche le patate sbucci. Convinta di essere una star come la Bellucci, frequenti solo chi ti compra gli abiti di Gucci. Rispondi a calci se ti chiedono gli abbracci, consumata più dei cazzi dei ragazzi a quello giucci. Non ti dico staci, ma trovati un lavoro e non sproccare con il sesso il successo oltre che il denaro. Tutto chiaro, ciò che ami è solo il vizio, per questo tuo marito ti ha chiesto pure il divorzio. Donna d'affari a vari ruoli ti presti, ma mantieni il tuo prestigio se il pomeriggio ti svesti. Sei quella puffa che scopre dopo si doppa, che con i soldi si arrappa, per questo gli uomini sfrutta. Fai la delinquente e vuoi sembrare innocente, ma lo sai che tu non sei Madre Teresa di Calcutta. Tu vuoi gioielli dagli altri, tu vuoi bottino, ma sembra che i bordelli siano il tuo unico destino. E non importa se tu uomo ucraino, per salvare i tuoi interessi ti faresti emapolino. La parità non te la dà quella divisa, si meno meschina o se il cervello come Lisa. E tappati quell'utero con un tappo di sughero, è misero se l'usi per farti fare la spesa. So quello che cerchi e ciò che vuoi.